Il punto di Stefano Folli. Ci si domanda perché mai Berlusconi ha scelto proprio il giorno della memoria per vestire i panni dello storico a buon mercato. È stata una gaffe o invece un sottile messaggio politico agli elettori di destra e anche di estrema destra? Con ogni probabilità né l'una cosa né l'altra. Non è la prima volta che Berlusconi espone le sue idee sul fascismo. La novità stavolta è il contesto, davvero tragico, che fa delle sue affermazioni un episodio di pessimo gusto, in cui rivela naturalmente assenza di sensibilità. Ma gioca sempre in lui il desiderio di non omologarsi agli altri, di dire una cosa diversa, che gli permetta di essere comunque al centro delle cose, della polemica, di essere ripreso dai giornali del giorno dopo. Il suo vero messaggio elettorale in fondo è questo, consiste da sempre nell'essere il protagonista dell'evento, ma stavolta il calcolo è davvero sbagliato, segno che anche il proverbiale talento berlusconiano per le campagne elettorali comincia a incepparsi.